24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. So anch'io che c'è tanta gente che preferisce un passerotto in mano piuttosto che il tacchino sul tetto. Ho impiegato un mese per capire la storia del passero e del tacchino, quella di Bersani, già. L'ha capita? Farò un master in bersanese. E chissà se l'ha capita, chissà se l'ha capita. Domani magari glielo chiederà direttamente la direzione del Partito Democratico. Renzi andrà, così pare, e discuterà con Bersani di questa storia del tacchino, evidentemente, il tacchino sul tetto, eccetera. Allora, buongiorno cari italiani, siamo qui fino alle 9 come al solito. 349-238-6666 se volete mandarci dei messaggi. Siamo nel nostro nuovo bar, abbiamo deciso, Barlamento, è così, Barlamento. Possiamo tirare sulla sala cinesca? Sì, eccoci qua. Nicole Minetti è sempre lei, che ci offre il caffè. Il caffè volentieri a tutti quanti. Forza, forza gente, accorrete al Parlamento. Abbiamo barman generosi come Santa Claus. Trucida sta canzone. Però insomma, Parlamento, vabbè. Voglio salutare Vincino, buongiorno. Buongiorno Vincino, le presento, ti presento uno sveglissimo Mario Adinolfi. Buongiorno, da 30 secondi. Da 30 secondi, svegliato dalla nostra Miriam Lucchetti. Guarda che con insistenza, brava Miriam, non so quante volte ha fatto squillare. Ma no, penso due o tre volte. No, andata lunga. Due volte, poi Adinolfi al sogno leggero, si è svegliato subito. Saluto anche il nostro alpino Peter Bescapè in regia. Allora Vincino, li hai visti questi bei grillini, no, che si sono presentati tutti? Stupendi tutti, meravigliosi, uno più carino dell'altro, guarda, me li comprerei tutti, ha detto Berlusconi vedendo là la cosa, guarda, assolutamente. Me li comprerei tutti. Cioè, è stata una carrellata sentiamone alcuni, no? Si presentavano, c'è quello che dice io faccio l'agricoltore, ognuno diceva la sua. Ciao a tutti, sono Paolo Bernini, ho 25 anni, sono laureato in tecnologia della comunicazione. I temi che mi stanno cari sono tutela degli animali, la città dello Stato, che sono vegano e sono disiscritto dalla Chiesa Cattolica. Vegano e disiscritto dalla Chiesa Cattolica. Disiscritto che vuol dire? Scomunicato, non lo so, disiscritto, credo che, non lo so, mandi una lettera. Uno si può disiscrivere, gli danno? Sì, ma chi la mandi? Miriam dall'altra parte fa sì. Ah, ti puoi sbattezzare, ecco, dice, ci sono... Mario Adinolfi, tu Mario sei battezzato? Ho battezzato apostolico e romano, ho 41 anni, sono appena svegliato da quindi... questo sono deputato anch'io, uscito. Esatto, era vegano. No, ma adesso, cioè, io magno, parecchio. Adesso partono le prese in giro. Io sono, cari esponenti, non stiamo prendendo in giro, è che abituatevi anche voi, è una modalità nuova, anche noi dobbiamo fare la tara, insomma, queste cose. Sentite un altro sull'agricoltura. Ciao a tutti, sono Diego De Laurentiis, vengo da Lecce, eletto alla Camera. Io mi occuperò di, in quanto sommelier, dell'agricoltura, che anche nella sommelier, nostra terra è stata capito? Sommelier, mi occupo dell'agricoltura, Vincino. Ciao a tutti, mi chiamo Alessandro Di Battista, 34 anni, di Roma, Camera e Zitti. Questo è il piglio un po' deciso, questo è il piglio un po', Mario si deve abituare questo, perché se pensa abituare. Che questo alla Camera stiano zitti quando va, sì. Abbiamo il capogruppo al Senato di Brancaccio, a Palermo ieri sera c'erano festeggiamenti, tutta Brancaccio, vino e salsiccia a tutti. Ah, fantastico, poi chi c'è? Marco Baldassarre, 28 anni, Arezzo. Faccio l'operaio, almeno fino a domani, poi andrò in aspettativa, mi piacerebbe occuparmi appunto tutta di lavoro. Quindi... Basta. Sono Ornella Bertolotta di Catania, eletta al Senato della Repubblica, ho 45 anni e gestisco un'azienda all'ingrosso con 14 dipendenti. Vabbè, questa dice io so leggere i bilanci, quindi se volete... Perché ha avuto una fortuna, vince? Beh, c'è sempre l'operaio che va in Parlamento. Sì, ma prima li prendevano come fiore all'occhiello, là, il sopravvissuto, ora invece no, era proprio una lotteria, insomma, a chi capita. Ecco, c'è quello che era operaio, quello che non faceva niente, quello che aveva avessero tutte queste aziende cose che dicono poi chissà. Però qua bisogna capire che atteggiamento avere. Allora, Maria Di Nolfi, con che occhio dobbiamo guardare? Certamente con l'occhio della novità, con l'occhio di qualcosa anche di interessante, non con l'occhio della presa in giro, perché vabbè, sì, anche noi qui giochiamo un pochettino, la modalità è nuova, eccetera. Ma che dobbiamo fare di fronte a questa truppa di 163 deputati e senatori? Come li attendiamo? Io dico toglierci il cappello, perché comunque è successa una cosa incredibile, cioè arrivano 163 persone normali, diciamo così, in Parlamento, portate da un vento di novità fortissimo, dopo una prestazione oggettivamente imbarazzante delle classi dirigenti politiche e professionali, no? Perché questo è l'elemento, insomma, se non avessimo avuto classi dirigenti politiche e professionali che hanno portato l'Italia al disastro, i 163 vegani piuttosto che operai non sarebbero arrivati, e noi tutti ci aspettiamo che non facciano peggio di quelli che li hanno preceduti, perché insomma inevitabilmente, avendo anche frequentato il Parlamento, non è che dovete pensare che lì dentro ci siano stati fino ad oggi il fior fiore della società italiana, insomma, ecco, per capirci. Quindi dobbiamo almeno avere il rispetto per... Insomma, giù il cappello. Sì, perché è una cosa incredibile, cioè, tra l'altro un modello di livello mondiale, ci sta guardando tutto il mondo, eh? Sì, tutto quello il è mondo vero. Guarda questa cosa con una forte curiosità. Io per quel poco che posso li aiuterò con il modo che si può, insomma, perché però ovviamente... attenzione, ti hanno contattato per fare qualche... dillo subito. No, perché... lo faccio da esterno, non sono un grillino, non cerco di accreditare non lo so. Che mi interessa, allora, è che mi piacerebbe non facessero danni eccessivi di inesperienza, perché poi il Parlamento è una bella questa è la questione, può fottere tutto, però insomma poi è una cosa importante, cioè, per esempio questa cosa del capogruppo a rotazione per 3 mesi, Vincino, per me è, cioè, detto con sommo rispetto, un po' una buffonata, nel senso che è un ruolo importante il capogruppo, non è che è una cosa che uno fa così, poi dopo 3 mesi lo fa un altro, o no, Vincino? Ma come dire, dipende, cioè prima era molto importante perché il capogruppo aveva i soldi di tutti, no? E poi lui li smazzava praticamente, no? Come ora però i soldi tiene solo Casaleggio, per cui questo ruolo importante non ce l'ha come cosa, no? Ah, io perfetto. Devo dire, bisogna guardarli da un punto di vista come gli altri praticamente, no? Cioè, noi della satira proprio non facciamo sconti a nessuno, mica siamo buoni così, che carini, sono carini, ma non è che, cioè, ogni tanto nel Parlamento arriva gente nuova, no? Gente fresca e cosa, no? Poi noi siamo tutti felici, nel 46, 47 arrivarono tanti, no? Carini, nuovi, quelli là, già, tanti. Poi arrivarono nel 94 tanti nuovi, arriva di volta in volta, arriva gente nuova, e noi siamo, è una cosa ma la novità, di tutti i Parlamenti. Sentite, però la satira non fa sconti, cioè sentite per esempio Vendola come prevede che sia il nuovo Parlamento, sentite Vendola. La composizione di un Parlamento pieno di giovani e con tante ragazze, con tante tante tante donne, no? Diventerà immediatamente un daguerrotipo ingiallito, l'Italia delle storielle di Berlusconi. Saremo entrati in un mondo nuovo. Il daguerrotipo, Vincino. E poi la gente dice: chi è? Cos'è il daguerrotipo? Vedo la gente. Vedo la gente su Google. Daguerrotipo. Cioè, quello Vendola è stato così sconfitto al 0,2%, al 3%, che però alle vittorie degli altri diventano subito sue. Mario, la stessa cosa, effettivamente, però... Adinolfi si sta attaccando al treno di Grillo, Vendola, no? Vendola è rimasto con pochi voti, è chiaro che insomma ha una unica se non parte il governo del centrosinistra, per capirci, per Vendola è molto dura la sopravvivenza in questo Parlamento, insomma è chiaro che lui cerca un orizzonte che è quello dell'alleanza centrosinistra Movimento 5 Stelle, che per inciso non esiste in natura, insomma, per cui proprio purtroppo tutti i suoi tentativi saranno frustrati. No, sarebbe bellissimo. Vincino, prova a darci, non in vignetta, poi Vincino ha fatto anche l'uomo mascherato oggi in vignetta sul foglio, ma tra poco abbiamo due audio succosi sull'uomo mascherato. Un possibile dialogo tra un grillino e Vendola al Parlamento. Cioè, Vendola si presenta, mi piacere, sono Vendola. Sono Vendola, nato funzionario di partito dal 1948 praticamente, no? Ho fatto il funzionario a tutte le varie cariche, poi sono diventato consigliere comunale, poi sono stato alla FIGC, capo della FIGC, Daguerrotti, infatti fare il vero disastro è per il PD, dove sono per tre quarti funzionari di partito, cioè anche i giovani sono giovani allevati funzionari di partito praticamente, no? È un bel disastro. Dall'altra parte sono tutti vecchi catanani, no? In un certo senso. Qualche giovane c'era, però non gli piacevano agli altri perché erano giovani, facevano i lavori normali, no? Facevano le igieniste mentali, le cose. Ma ci arriviamo anche a quello. Allora, l'uomo mascherato vi fa paura? Perché ci sono due versioni. Sentite Massimo Cacciari sull'uomo mascherato, cioè Beppe Grillo. Beh, per fortuna che abbiamo l'uomo mascherato, è la nostra fortuna l'uomo mascherato. Ma si rende conto di quello potrebbe essere la reazione in un'altra epoca, in un altro paese, a una crisi radicale di classe politica di questo genere? Vabbè, Cacciari dice per fortuna abbiamo l'uomo mascherato. Sentite invece Vauro, il socio, il sodale di Vincino, condirettore del male. Sentite Vauro. E all'articolo 21, la libertà di informazione, perché a me vedere un coglione mascherato che corre su una spiaggia, quando quel coglione mascherato rappresenta o dovrebbe rappresentare il 30% dell'elettorato, non mi diverte, mi fa spavento. Gli uomini mascherati senza faccia mi fanno paura. Vauro. Il coglione mascherato che corre perché su Vauro una spiaggia. Perché Vauro ha letto poco Tex Willer. Sì. Io che come Grillo ho letto tanto Tex Willer, so che c'è sempre un cattivo che si maschera e che non si sa chi è, non si sa chi è, non si sa chi è, e poi alla fine si scopre. Ogni tanto ecco, è Mephistus. Faccio la parte di Mephistus e tutti gli italiani si spaventano. No, Vauro fantastico. Vauro Mario ha esagerato. Cioè, ecco, il rischio è di prendere sul serio troppo anche queste buttate di Grillo, che lo fa apposta perché il Corriere ha esaminato tutta il suo abbigliamento, gli occhiali, la felpa, no? Io i tuoi due audio che hai mandato sottolineerei quello di Cacciari, insomma, che ha detto una cosa molto importante. Ragazzi, se non avessimo avuto Grillo, che ha incanalato tutta la protesta, noi non sappiamo cosa sarebbe successo. Insomma, in Grecia c'è Alba Dorata, in tutti i paesi, diciamo, dove la crisi, in particolare i paesi europei, perché la crisi morde l'Europa, ci sono movimenti di estremisti, da Le Pen che va al 20%, dal Badorata che abbiamo visto quello che combina, ai neonazisti in Germania, in Austria, insomma bisogna stare molto attenti all'evoluzione. Noi abbiamo avuto tutto sommato la fortuna di trovare un catalizzatore che ha incanalato la protesta, riuscendo a farlo diventare il primo partito, perché la protesta in Italia è altissima. Basta camminare per strada, io lo dico sempre, non ho la macchina, l'ho rottamata, uso gli autobus e ho sentito in questi mesi davvero montare, tu sai che io poi dopo ho scritto a un certo punto il Movimento 5 Stelle sarà il primo partito, perché è inevitabile quello che si ascoltava. Allora, per fortuna c'è veramente tra i due audio mi sembra quello di Cacciari. No, ma è chiaro, Massimo, basta andare tra la gente, anch'io lo facevo, vado in metropolitana, porto mio figlio a scuola, porto mio figlio a fare judo e sento le mamme, sento la gente, sto zitto lì e sento gli altri che parlano, e parla tutti di rabbia, di fastidio, magari c'è anche un po' di esagerazione, però è diffusa molto. 24 mattino. Salve, sono il guru di Silvio Berlusconi. Siccome stava rischiando di vincere le elezioni, si sarebbe poi trovato a piegare le ginocchia davanti a Beppe Grillo. Così ho detto: Silvio, lascia andare un po' di testosterone. E lui ha cominciato con la storia del viene, quante volte. Questo gli ha fatto perdere circa 256.322 voti, quanto basta per far vincere Bersani. Ciao Alessandro, voglio dire una cosa, noi siamo un gruppo di donne che chi ha votato il PD e chi ha votato Beppe Grillo. Quelle che hanno votato Grillo ci stanno ripensando, perché questo caro signor Grillo deve prendersi le sue responsabilità, non stare al balcone a sbraitare, ora ci sta pure lui. Ma com'è possibile stare ancora dietro ai problemi giudiziari di Berlusconi? Ma chi è questo? Ma lo sa che abbiamo altri problemi in Italia, compreso non ultimo l'ingovernabilità dopo le votazioni? ma è ora di farla finita, basta, ma basta. Chissà se Bersani ha capito che è arrivato al capolinea anche lui. L'unica cosa dignitosa da fare era di dimettersi, se no farà la fine di fini, intesi? No Mira, siamo già in default, è inutile che Burchiele col suo accento tipo Bersani ci ride sopra, siamo già nella merda, dobbiamo finirci però tutti, quindi devono finirci anche questi politici ladri e stronzi e bastardi, hai capito? Viva Grillo, avanti tutta! Ecco, no, giusto per dire con Mario Di Nolfi e Vincino la rabbia che si coglie tra la gente. Questa è la nostra segreteria telefonica. Oh, qua c'è Giuliano Amato che dopo è Vincino. Ieri ha scritto una lettera alla Repubblica dicendo io non sono della casta. Basta, cioè dire no. Che io sono della casta. Ha scritto così su Repubblica. E oggi ci sono sia il Fatto Quotidiano che Libero che fanno una pagina, c'è cioè Mario Giordano sul Libero dice ecco per i motivi per cui dovrebbe vergognarsi. Uno, due, tre, quattro, cinque, li snocciola. Fino a 35.000. No, arriva fino alla G, quindi 6, A, B, C, D, E, F, G, 6 punti per cui dovrebbe vergognarsi. Qua c'è una lotta così, ma torna Amato, no, torna Fabrizio Barca, forse, io ho fatto questo pronostico, Fabrizio Barca come esecutivo tecnico, dice Vincino, chi è Fabrizio? No, lo so chi è Fabrizio Barca, no, torna, cioè quello ha fatto... Che ministero ha avuto lui? Ministro della coesione, cos'è Adinolfi? Della coesione territoriale. Cioè, è attualmente il ministro della coesione. Del nulla. Vabbè, ma il ministro più fallimentare del mondo è la coesione nazionale. Dai, cioè, come... Perché adesso, povero Barca? Insomma, Napoli cade a pezzi, cioè, quell'altro è solo il ministro della coesione a Napoli. Coesione territoriale. Il ministro della coesione, no? No, però comunque, sulla questione Grillo c'è già la prima polemica. Avete visto la capogruppo quella pro tempore, Roberta Lombardi, della Camera? La mussoliniana convinta. Ha detto questo, ha scritto sul blog, prima che degenerasse il fascismo aveva una dimensione nazionale di comunità attinta a piene mani dal socialismo, un altissimo senso dello Stato e la tutela della famiglia. Oggi Gramellini, Mario Di Nolfi subito chiede si dimetta oggi, subito, dopo una roba. Insomma, ha detto le cose che ha detto Berlusconi. Appunto, infatti Gramellini dice l'avesse detto Berlusconi l'ha detto subito. Berlusconi l'ha detto più volte. Sì, certo. Le leggi razziali, ma non così chiaro, lei proprio è stata... E poi non l'ha scritto. Ma c'è stata qualche polemica dopo che l'ha Berlusconi detto Berlusconi. Queste cose non le scrive mai. Le dice. le dice. Poi può smentirle. Ma lei, capito? Secondo me era indecisa tra Casa Pound e Grillo. E poi l'hanno presa per Grillo. Non lo so, però di noi. Però Casa Pound 0-0, guarda. La cosa bella è questa, Casa Pound, tutti i fascisti italiani, scomparsi tutti. Ma perché? Perché tutto il voto è andato su Grillo. Questo è il dato, perché ogni voto di estrema destra che ci sarebbe potuto essere in Italia, grazie a Dio, è andato canalizzato. È lì che dice Vincino, il nostro Adinolfi dice meno male che c'è stato Grillo che ha incanalato quella protesta, altrimenti c'erano rivoli anche un po' pericolosi, no? Di persone che magari... Ma sicuramente, non penso che questi 25, questi sono 8 milioni di italiani, avrebbero votato, non lo so, Bersani, insomma, ecco, non credo sarebbe andata così, insomma, per cui avremmo avuto sicuramente un voto di protesta molto alto. Ovviamente, ragazzi, qui ci saranno ingenuità, stupidaggini, questi faranno di tutto. Ma però di quelli che hanno votato per Bersani? Eviterei, com'è? Cioè, ingenuità, stupidaggini, quelli che hanno votato Bersani. No, perché... sto dicendo, oggi, adesso, succederà, insomma, i pezzi alla Gramellini, insomma, in cui crocifiggeremo il grillino che dice la stupidaggine. Adesso ce ne saranno 150 al mese, insomma, perché inevitabilmente questi diranno, faranno, sono appunto purtroppo estremamente ingenui, insomma, nessun politico che sta per essere eletto capogruppo tirerebbe fuori una dichiarazione del genere. Sì, no, è chiaro. Non l'ha uscita lei, gliel'hanno scoperta nel suo blog. Non l'ha detta lei. L'ha pubblicata. Lei, Adinolfi, non l'ha detta lei. Ma ho capito, l'ha pubblicata, l'ha scritta. Ma l'ha pubblicata due mesi fa, non lo sapeva che sarebbe stata eletta, non ci pensava mai. Vabbè, insomma, però era già in campagna elettorale. Io penso, diciamo, che se scavassero delle cose dette da ciascuno di noi, tendo a pensare che troverebbero delle cazzonerie, persino in quello che ha detto Vincino. Perfino. A me mai, mai fatto. Vincino, basta che non acquisiscono gli audio di Radio 24 e Vincino non ha mai detto niente. A proposito, Vincino, non abbiamo parlato di Berlusconi, abbiamo l'ultimo minuto, ma lì c'è un PM che dice che c'era una prostituzione ad Arcore. Organizzata, cosata. E Berlusconi come ha risposto ha detto quel PM non ha pagato una donna, ha detto sì, a parte non ha mai pagato una donna, no, quel PM evidentemente non ha mai avuto le mie fortune, Ma tu l'hai capito, c'è la regina Elisabetta, l'hai capito, perché non viene in Italia? È stata dimessa dall'ospedale. Lei non viene in Italia perché ha paura di uno che le chiede: viene, non viene, quante volte viene, ma dopo... La regina Elisabetta, per carità. E, Adinolfi, ti interessa la vicenda Berlusconi ormai? No, guarda, io veramente spero in Dio che insomma non regali da Berlusconi un'ulteriore offensiva giudiziaria, e meno che mai quella sulle donne, perché insomma è rivitalizzare un morto. Se si va a votare fra 3 mesi sotto offensiva giudiziaria, noi vince, veramente vince. Quello che ha detto, non so chi, Cicchitto, Alfano ieri, che poi lo scontro sia Grillo Berlusconi possa essere una cosa reale. Io francamente un bipolarismo del genere me lo eviterei. Grillo, se devi votare o Grillo Berlusconi, Mario vota Grillo, si sa. Io voto Grillo, ma per il paese ma è una Renzi cosa non c'è Renzi, dai, Renzi, voteremo tutti il Renzi, ancora un posto Renzi, Vincino. Domani Renzi si presenta alla direzione del PD. E vediamo. L'hai già tradito, Adinolfi. No. Vedremo, ma tra 6 mesi è un'altra storia, chissà. Intanto ci dobbiamo fermare. Vi ringrazio sia Vincino sia Mario Adinolfi e ci troviamo la prossima volta al Giornale Radio. Ciao a tutti, sono Diego De Laurentiis, vengo da Lecce, eletto alla Camera. Ciao a tutti, sono Paolo Bernini, ho 25 anni, sono laureato in tecnologia della comunicazione. I temi che mi stanno cari sono tutela degli animali, la città dello Stato, che sono vegano e sono disiscritto dalla Chiesa Cattolica. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Eccoci, le 7:21 minuti, cari ascoltatori, se vi siete svegliati solo ora, pigroni che non siete altri, perché noi siamo in onda dalle 6:30, ricordatevelo. Comunque, la rassegna stampa, siamo pronti, vi ricordo che avremo ospiti per la politica, capire cosa fa il PDL, visto che si parla sempre di PD e di grillini. Renato Brunetta alle 8:15 e poi avremo ospiti per parlare appunto di quello che è successo anche ieri a Roma, questa presentazione, questa grande attenzione mediatica per il deputato e senatore del Movimento 5 Stelle, Massimo Fini del Fatto Quotidiano, giornalista, scrittore, e Giuliano Ferrara, direttore del Foglio, che vedremo tra poco, è stato molto critico nei confronti loro. Allora andiamo a leggere i giornali in edicola. È martedì 5 marzo, intanto i titoli: Il Sole 24 Ore, Italia-Spagna, spread più vicini, e un'analisi sul differenziale dei BTP. Bund sale a 345, quello spagnolo scende a 367. Insomma, il differenziale dei titoli di Stato italiani e spagnoli con la Germania un mese fa era di 103 punti a nostro favore, ora è solo 22 punti a nostro favore rispetto alla Spagna. Un dato molto molto significativo. La politica, per il Corriere della Sera, Quirinale, il piano per l'incarico, mandato esplorativo al leader PD, poi l'ipotesi tecnica. La Stampa, Monti convoca i leader. Repubblica, Monti convoca Grillo, PD e PDL. Il Fatto Quotidiano, 5 Stelle, governo politico no, ma governo tecnico forse sì. E la vicenda del governo tecnico apre anche il Messaggero, avanza il governo tecnico. Libero, il piano Prodi sul colle, Silvio in cella. Questo è il piano della sinistra per Libero. Il Giornale, la Banca d'Italia va al governo per rimediare al disastro Monti, spunta un buco da 14 miliardi. L'Unità, le giravolte di Grillo, prima dice niente fiducia, poi lancia il governo senza partiti. mentre il Manifesto mette il titolo Sono partiti e c'è la foto dell'assemblea dei grillini ieri. Il titolo invece di Avvenire è un'inchiesta sul gioco d'azzardo legale e lo chiamano azzardo legale, questo è il titolo, scommesse online e videopoker per riciclare il denaro sporco della sacra corona unita, questo suo Avvenire. Oh, tra l'altro, cari ascoltatori, oggi è l'ultimo giorno delle camere vecchie, cioè l'ultimo giorno per traslocare i questori della camera. A proposito, devo aprire una parentesi, devo informare gli ascoltatori. Oggi assumeranno, come aveva scritto il Fatto Quotidiano tre giorni fa, nell'ultimo giorno utile, 30 persone a tempo indeterminato dell'ufficio di presidenza della Camera. Lo avevamo detto dal Fatto Quotidiano tre giorni fa. Bene, noi avevamo ospite fissato ieri uno dei questori della Camera uscente, Antonio Mazzocchi, che poi d'improvviso domenica sera ci ha fatto sapere che può parlare solo l'altro questore, l'onorevole Colucci. Li abbiamo cercati tutti e due, insomma si sono defilati, non parlano di questa vicenda che succederà oggi, l'assunzione, ultimo giorno utile, di 30 persone dell'ufficio di presidenza della Camera a tempo indeterminato. Costo per il Fatto Quotidiano 3 milioni di euro l'anno, soldi nostri ovviamente. Comunque oggi è l'ultimo giorno da deputati, c'è il via al trasloco, su questo Francesca Schianchi fa una mezza pagina sulla Stampa, c'è anche l'intervista a Osvaldo Napoli che dice: vuole sapere una cosa, quando entro alla Camera il piantone al portone principale batte i tacchi, beh, io mi emoziono ancora. Ma è tutto finito anche per Osvaldo Napoli. No, ma in realtà questo mi permette di parlare, insomma, tenendo sempre bene a mente il nostro hashtag su Twitter, mani sul volante, di due pagine che trovate di polemica dopo la lettera che Giuliano Amato ha scritto ieri su Repubblica, la citavamo, no? Giuliano Amato che ha preso carta e penna, ha detto: io non sono della casta. Ebbene, oggi il Fatto Quotidiano e Libero si accaniscono sull'ex presidente del Consiglio, l'amato disperato, non sono della casta, così il Fatto Quotidiano con Giorgio Meletti. La vendetta della storia si abbatte spietata sulle ambizioni di Amato. Alla soglia dei 75 anni l'ex braccio destro di Craxi vede svanire il sogno di una vita, il Quirinale perde la testa, scrivendo a Repubblica una delle più clamorose lettere autogol della recente storia politica. Titolo surreale: non faccio parte della casta. Tutto per la furbizia da Travet che nel 97 lo spinse a dimettersi da presidente dell'antitrust, accampando un nobile desiderio di tornare all'insegnamento per agguantare a 59 anni e mezzo una pensione d'oro. E così inizia l'articolo di Meletti sul Fatto, ma anche Libero, con il direttore Mario Giordano, è durissimo in prima pagina. Perché Amato è il re della casta e ha 7 motivi per cui vergognarsi. Scrive Mario Giordano: Giuliano Amato dice che lui non fa parte della casta, che è un po' come se Toro Seduto dicesse che non fa parte degli indiani Sioux, o come se Paperino dicesse che a Paperopoli lui non c'è mai stato. Che ci volete fare? La spudoratezza ormai non ha più limiti. E dunque ieri mattina ci è toccato anche questo. Abbiamo letto una sentita missiva del dottor Sottile a Repubblica, in cui il medesimo si lamenta perché il paese non viene scosso da fremiti di entusiasmo all'idea di un suo possibile ritorno a Palazzo Chigi. Ed eccoli poi, gli elenca Giordano i 7 motivi almeno per cui Giuliano Amato dovrebbe vergognarsi. A. Perché prende 31.000 euro al mese tra pensione INPDAP e vitalizio da parlamentare, come finalmente ammette lui stesso nella medesima lettera. B. Dovrebbe vergognarsi perché quei 31.000 euro al mese di pensione li prende dopo aver selvaggiamente tagliato le pensioni degli italiani. C. Dovrebbe vergognarsi perché è stato il principale consigliere economico e politico di Craxi e non si è mai accorto dello sfascio e dei furti della Prima Repubblica, salvo poi tradire Bettino all'ultimo. D. Perché fa sempre da sempre parte della classe dirigente che ha consentito negli ultimi decenni l'esplosione dei costi della politica. E. Perché nonostante questo nel 2012 è stato nominato consulente per Italia, i costi della politica, e non ha fatto nulla. E poi perché negli ultimi mesi si è fatto dare uno spazio Rai, pagato dai contribuenti e mandato in onda una delle trasmissioni più brutte che si siano mai viste in TV. E infine perché è stato due volte presidente del Consiglio, due volte ministro del Tesoro, una ministro dell'Interno, presidente dell'Autorità del Mercato, e non può dire non faccio parte della casta. Vabbè, insomma, questo Mario Giordano contro Giuliano Amato, perché Amato è il re della casta. Vi segnalo, prima della pubblicità e il meteo, che ci sono tanti articoli sul conclave. Beh, ma li leggeremo più avanti, perché sennò poi sforo troppo. Allora facciamo così, ve li segnalo tra l'altro due articoli. Il primo parla per la prima volta il cardinal Mahoney, quello accusato, ex arcivescovo di Los Angeles, accusato di aver coperto gli abusi nei confronti di minori nella diocesi, viene intervistato dal Corriere della Sera. E poi sul secolo XIX invece c'è una seconda puntata dopo quella di ieri, che pone una questione molto netta nei confronti del cardinale Calcagno. L'accusa è questa: Calcagno sapeva e ha chiuso un occhio sugli abusi da parte di un sacerdote nella diocesi di Savona, quando lui era a Savona, che si è macchiato di comportamenti pedofili, e per questo dovrebbe anche lui non fare parte del conclave. Questo si chiede il secolo XIX. Ed ecco Alessandro Milan che legge i giornali come nessuno al mondo sa leggerli. Eccoci qua alle 7:34 minuti. Allora, certamente ieri è stata la giornata politicamente in cui sono successe due cose. La prima è questo raduno di tutti i deputati e senatori del Movimento 5 Stelle, che è stato e viene analizzato anche per le modalità sicuramente nuove, no? Qualcuno l'ha paragonato a una sorta di X Factor, cioè questa autopresentazione di tutti i deputati e senatori. E poi è un'altra giornata nella quale si cerca di capire, i giornali offrono degli spunti interessanti, come si uscirà con una nuova maggioranza. Cioè sempre il rompicapo è quello: dove sono i numeri e come si formerà un nuovo governo. Grillo, il governo senza partiti, ecco un'idea, l'ha lanciata il neo capogruppo, anche se saranno a rotazione, dunque pro tempore, del Senato del Movimento 5 Stelle, vale a dire Vito Crimi, che dice: perché non facciamo un governo senza politici ma solo con i tecnici? E quindi molti giornali titolano: avanza il governo tecnico, ribadendo insomma non ci sarà nessuna fiducia, tantomeno un governo politico. Il neo capogruppo Crimi scrive il Sole 24 Ore a pagina 7, apre a un esecutivo composto da tecnici. Certo, se volete potete leggere anche l'aspetto di colore. Fabrizio Roncone è riuscito a intrufolarsi per il Corriere della Sera nella riunione dei 163 deputati e senatori del Movimento. Scusi, dove va? Così racconta pagina 3 del Corriere. Devo scendere, sono in ritardo, non voglio perdermi Beppe. Ma non ha il pass? Ma sì, lo faccio tra 10 minuti. Vabbè, dai, ok, scenda pure. Insomma, scambiato per un deputato, tanto non si conoscono le facce per il momento. Fabrizio Roncone riesce a intrufolarsi appunto nella sala congressi essenziale, luci al neon bianche fioche, l'unico che indossa la cravatta è Casaleggio. Lo sguardo scorre sui ranghi dei parlamentari grillini, volti anonimi e puliti, allegri ed eccitati, abbigliamento informale, certamente un tratto distintivo, colpisce anche la quasi totale assenza di formalismi. E niente, lì iniziano le presentazioni, eccetera, finché Roncone viene beccato e lo portano su fuori. Lei non ha il pass, come mai non ha? Venga un po' qui, ma faccia piano, forza, forza, andiamo, risaliamo con la ragazza che l'aveva fatto scendere all'inizio, che dice: vede, voi giornalisti non vi vergognate, fate pena, fate tutti pena, non ci si può fidare, lei mi ha detto una bugia. Ma insomma Roncone scrive: ne è valso la pena guardare per la prima volta e dal vivo e da vicino in faccia questi nuovi deputati. C'è anche la prima polemica. C'è anche la prima polemica che riguarda la neo capogruppo Roberta Lombardi alla Camera del Movimento 5 Stelle, perché sono le sue frasi scritte su un blog un paio di mesi fa riguardo il fascismo che fanno discutere. Che cosa ha detto Roberta Lombardi? Beh, parlando di Casa Pound, ha scritto sul blog: del fascismo Casa Pound hanno conservato solo la parte folcloristica, se vogliamo dire così, razzista e sprangaiola, che non comprende l'ideologia del fascismo. E qui c'è la frase contestata: fascismo che, prima che degenerasse, aveva una dimensione nazionale di comunità attinta a piene mani dal socialismo, un altissimo senso dello Stato e la tutela della famiglia. Parole firmate, messe sul blog da Roberta Lombardi, ecco che esplode la polemica. Corriere della Sera: la mamma capogruppo contestata al debutto per l'elogio del fascismo, pagina 5. Oppure il Messaggero: anzi no, il secolo XIX, Roberta, la passionaria che rivalutò il fascismo. Il Messaggero invece punta l'accento su che cosa? Sono vegano, sono mamma, sono sommelier, insomma ognuno che si è presentato in questa appunto sorta di X Factor. Al PD va bene il duce a 5 stelle, titola addirittura Libero, Francesco Specchia, e ancora La Stampa, i fascisti non ci tolsero i diritti, è già polemica sulla portavoce. A questo proposito Massimo Gramellini firma il suo buongiorno in prima pagina dal titolo Richiesta di dimissioni, ricorda la frase detta da Roberta Lombardi. E scrive Gramellini: questo paese senza memoria digerisce ormai qualsiasi oltraggio alla sua storia, ma se un politico di spicco della casta avesse pronunciato parole simili, dubito che l'avrebbe passata liscia. Nemmeno Berlusconi si era mai spinto a tanto. I più sarcastici gli avrebbero chiesto in quale giorno, ora e minuto esatto, un movimento giunto al potere con violenza e sospensione delle libertà fondamentali era degenerato in qualcosa di peggio. I più sensibili sarebbero sobbalzati davanti alla superficialità urticante di certe affermazioni. In particolare la seconda, cioè che il fascismo ha avuto una tutela della famiglia, un altissimo senso dello Stato, perché per dire che il fascismo, dei gerarchi corrotti e della retorica patriottica ammannita al popolo come una droga, avesse un altissimo senso dello Stato, bisogna avere un altissimo tasso di malafede o peggio di ignoranza. E non oso immaginare la reazione di Grillo, gli avrebbe urlato da tutti i computer a un leader che avesse detto questa cosa: sei morto, sei finito, arrenditi, topo di fogna. Purtroppo il pensiero sopra riportato è opera di Roberta Lombardi, neo capogruppo alla Camera dei 5 Stelle, che l'ho scritto sul blog. E quindi sono sicuro che la signora Lombardi presenterà entro stasera le sue scuse, seguite dalle dimissioni. Così Massimo Gramellini, non credo che andrà a finire così. In ogni caso, durissimo, anche Giuliano Ferrara fa un editoriale sul Foglio, sarà nostro ospite alle 8.30. Beh, certo, lui non ha mai digerito i grillini. Il titolo è Rispettare i grillini? Up to a point. Questo è il titolo dell'editoriale. In democrazia bisogna rispettare tutti, d'accordo, si dice così. Anche un movimento nato dal fortunato vaffanculo di un attore comico annoiato? Anche una masnada di parvenu organizzati da un couturier del web che teorizza idee da setta New Age sul futuro del pianeta Gaia? Bisogna trattare coi guanti una classe dirigente come quella che si lascia ammirare nei video delle prime assemblee di deputati e senatori a 5 Stelle? Se uno dice faccio il sommelier dunque vorrei occuparmi di agricoltura, un altro vuole andare in Senato in bicicletta salvo accertare dove sia il Senato su Google e un terzo si qualifica come vegano, beh allora con questi qui bisogna, come si insinua, fare i conti? E scrive più avanti Giuliano Ferrara: è davvero una situazione inedita quella che viviamo nella storia delle democrazie. Un partito che si vuole erede della Costituzione, dell'esperienza istituzionale maggiore della Repubblica, cioè il PD, fa la corte a un esercito di mediocri eletti per sberleffo e irritazione alle Camere da un paese assolutamente irresponsabile e da questo assembramento si fa sputare in faccia dalla mattina alla sera. Ecco, questa è l'analisi di Giuliano Ferrara, che poi continua sul Foglio, poi lo avremo alle 8.30. Insomma, è stata la giornata sicuramente del Movimento 5 Stelle e della sua presentazione. È stata anche la giornata in cui si cerca di capire come si troverà una soluzione a questa vicenda intricata di maggioranze difficili da comporre. Intanto s'avanza, come si suol dire, l'idea del governo tecnico. Domani ci sarà la direzione del Partito Democratico in cui Bersani esporrà la famosa teoria degli 8 punti, cioè un governo che poi esporrà Napolitano nelle consultazioni, che deve fare quelle cose, molte delle quali sono anche parte del programma del Movimento 5 Stelle, come la legge elettorale, rilanciare sul lavoro, ridurre i parlamentari, ridurre lo stipendio, ridurre i costi della politica e rilanciare sulla crescita. Bersani chiede la fiducia al PD, in direzione ci sarà pure Renzi, scrive per esempio Monica Guerzoni a pagina 8 del Corriere della Sera. Tra l'altro in questa direzione si presenterà anche il sindaco di Firenze e racconta Monica Guerzoni, ricordando l'intervista che qua ha fatto ieri Matteo Richetti, deputato renziano, che ieri ha detto: non è detto che il mandato debba andare a Bersani, anzi mi consola il fatto che la decisione spetti di un'intesa non a Bersani o a Grillo, ma sia nelle mani del capo dello Stato, insomma. E poi Richetti ha detto: se si votasse tra 6 mesi toccherebbe a Renzi. Ecco, queste frasi ricordate da Monica Guerzoni qui a Radio 24 pare non siano state per nulla gradite da Bersani e soprattutto da Vasco Errani, presidente dell'Emilia Romagna, braccio destro del leader PD. Insomma, si profila anche all'interno del PD una discussione interessante, come ricorda anche Emilia Patta sul Sole 24 Ore, a pagina 9, Bersani e gli 8 punti, il PD domani va alla conta. Si cercherà di capire quale sarà il profilo. Intanto Marzio Breda, quirinalista, quindi giornalista che segue tutto quello che succede sul Colle, e fa un'interessante analisi a pagina 9. E insomma, come tutto è in mano adesso al capo dello Stato. E ricorda Marzio Breda, aveva detto a Berlino di recente: faccio appello alle mie energie, ovviamente cerco di mobilitarle. Il compito proibitivo e di sicuro faticoso, lo dimostrano le prime frustranti prove di dialogo tra i partiti, ancora più fondate sulle sfide, sulle provocazioni reciproche. Allora, quali sono le soluzioni? Scrive Marzio Breda sul Corriere. O il governo di minoranza o di cambiamento evocato da Pierluigi Bersani, che resta una possibilità problematica però, secondo Breda, perché durante le consultazioni il presidente avrà bisogno di mettere a verbale risposte convincenti a un paio di questioni. In primo luogo dovrà avere la ragionevole certezza che l'aspirante premier possa assicurare il numero legale di 160 senatori. Servirà poi che i sì prevalgano sulla somma dei no e di astensioni. Insomma, una via poco percorribile. L'ipotesi 2 di una proroga a oltranza di Mario Monti, cioè che rimanga ancora a Palazzo Chigi, non sembra neanche praticabile, perché dal punto di vista costituzionale e dunque dello stesso Presidente della Repubblica è un qualcosa di poco sostenibile. Allora, l'idea, lo sbocco che potrebbe esserci in questo quadro e che ha forse maggiori probabilità per uscire da questa impasse è quello di un certo senso disperato, cioè un governo di scopo, o comunque lo si battezzi, cioè un governo per il quale il capo dello Stato incarichi una figura di profilo istituzionale. Tra i nomi Marzio Breda fa per esempio l'attuale ministro dell'Interno, Anna Maria Calcellieri, che rientra in questi nomi, a cui affidare una missione limitata dopo una fiducia tecnica, andando di volta in volta a cercarsi i voti in Parlamento e confidando nel buon senso dei partiti. Scopi di questo governo: riformare la legge elettorale, approntare qualche misura in campo economico che le performance dello spread dei mercati rendessero indispensabili e urgenti. Alla fine, ovviamente, la via di questo è il voto dopo che viene fatta una riforma elettorale. Certo, molti fanno notare che Mario Monti abbia invitato, in vista della preparazione del Consiglio europeo del 14 marzo, dove lui parteciperà in veste di premier, abbia invitato a parlare a Palazzo Chigi chi PDL, PD, ma anche il signor Giuseppe Grillo, il signor Beppe Grillo. Venga qui a Palazzo Chigi per capire, darmi, scambiare due pareri su cosa intende suggerirmi per il Consiglio europeo. È una mossa importante per molti analisti, da qui ripartiamo dopo informazioni sul traffico, è anche una mossa, secondo molti, che è un preludio al governo tecnico. Eccoci qui. Allora, come detto, Mario Monti ha invitato i leader e anche il signor Grillo a Palazzo Chigi per parlare del Consiglio europeo del 14 marzo. Ebbene, secondo retroscena di Francesco Bei su Repubblica, la paura dei democratici, dunque del Partito Democratico, è questa: sono prove di governo tecnico. In realtà, scrive Bei, Mario Monti si difende in questo retroscena, sono tutte come al solito frasi non pubbliche, ma attribuite. È mio dovere rivolgersi ai leader delle forze presenti in Parlamento senza dare enfasi a questa cosa, non inseguo nessuno, chiedo soltanto se vogliono esprimere un'opinione, quindi anche Beppe Grillo. In realtà il timore dei democratici è proprio questo, secondo Repubblica. Retroscena poi continua pagina 6, il timore che sia una prova vera e propria di governo tecnico. Oh, dall'altra parte il centrodestra che fa? Noi alle 8 e un quarto lo chiederemo a Renato Brunetta, perché è un po' sparito invece le posizioni del PDL, Popolo della Libertà e del centrodestra su questa analisi del voto e del possibile nuovo governo. Certo, Silvio Berlusconi ha a che fare con i processi e i procedimenti giudiziari. Ieri nella requisitoria, l'avete sentita, del PM San Germano, che sta tirando le fila per il processo Ruby, ha detto ad Arcore c'era un sistema prostitutivo. E ha fatto una ricostruzione, ovviamente la ricostruzione dell'accusa, molto molto dura, no? Di un giro proprio di prostitute coordinate da Nicole Minetti che servivano a soddisfare i piaceri sessuali di Silvio Berlusconi. Berlusconi ieri ha risposto, come ricorda nell'articolo di cronaca Giuseppe Guastella sul Corriere della Sera, definendo fantasiosa la requisitoria di San Germano, dicendo: ho avuto la duplice fortuna di non aver mai dovuto remunerare una signora o signorina per avere rapporti intimi e sono sempre stato in grado di dare una risposta positiva a chi mi si rivolgesse chiedendomi un aiuto. Il PM, ha scritto Berlusconi, non ha avuto nessuna di queste due fortune e si regola come se io fossi lui. Evviva! Insomma, continua la diatriba, tanto che in realtà Liana Milella racconta nel retroscena di Repubblica, pagina 13, che al di là di questo comunicato che sembra anche simpatico, c'è un Berlusconi che viene dato per furioso e dir poco. Per una giornata Berlusconi inveisce contro quella che chiama ormai la dittatura dei magistrati, così chiuso ad Arcore. Intanto i conti, beh, i due dati, il primo è quello che mette in prima pagina il Sole 24 Ore, è un dato brutto, cari ascoltatori, per la nostra economia. Lo spread in rialzo, un mese fa la differenziale tra i bund spagnoli tedeschi e italiani tedeschi faceva segnare un vantaggio di 103 punti a nostro favore. Ora il distacco, un mese dopo, è sceso a 22 punti, perché il differenziale Italia-Bund è 345, il differenziale bonus-Bund 367, dunque siamo ancora, secondo questo parametro economico, meglio della Spagna, ma si è quasi azzerata questa differenza. Allora gli spread più vicini, l'analisi poi di Moria Longo a pagina 2 del Sole. Volete un'altra notizia che il giornale spara in prima pagina? Per la verità anche è la posizione di Giulio Tremonti, ce l'ha detta anche in questi microfoni qualche tempo fa, e cioè, secondo il giornale Giambattista Bozzo, lo scenario è che si è scoperto un buco di bilancio di 14 miliardi di euro dal governo Monti, e dunque la ragioneria generale sospetta che entro giugno serva una manovra aggiuntiva da 14 miliardi. Sarà vero? Non sarà vero? Se sarà così, cosa vorrà dire, cari italiani? Facciamo un quiz. Nuove tasse. Allora, come detto, due articoli per concludere sulla situazione del conclave. Parla per la prima volta il cardinal Roger Mahoney, nato a Hollywood nel 1936, ex arcivescovo di Los Angeles, accusato di avere coperto le molestie sessuali. Parla con Maria Antonietta Calabrò, il Corriere della Sera, pagina 17, sugli abusi. Anch'io ho sbagliato, la Chiesa non capì quei crimini. Dice il cardinal Mahoney: non avevo capito la vera natura del problema e coloro che commettono abusi continuano a perpetrare i loro crimini. Non lo avevo capito, queste cose non erano ben comprese allora come lo sono oggi. Chiunque prenda e consulti la letteratura psicologica e psichiatrica dell'epoca vedrà che ho applicato l'approccio professionalmente suggerito allora per tutte le istituzioni. Molti di noi nella Chiesa vedevamo questo flagello attraverso l'ottica della Chiesa come un peccato e una debolezza morale, ed è tutte e due queste cose, ma abbiamo confuso questa nostra convinzione morale con quanto era necessario per risolvere il problema. Però poi Mahoney si difende dicendo: poi abbiamo rimediato, alla fine eliminato il flagello. Non entra nella polemica in sé partecipare o no al conclave, dice solo: l'attacco per me a livello personale è stato un momento difficile, perché dopo 20 anni si è tornato a parlare di abusi. A proposito di abusi, il Secolo XIX insiste oggi a pagina 6. Lo shock a Savona, dopo che si è scoperto che con una lettera è stato avvisato anche il Papa emerito Ratzinger, quando non era ancora Papa, del fatto che ci fossero degli abusi pedofili a Savona. Ora Silvia Campese scrive sul Secolo: lo shock coinvolgerebbe anche l'attuale cardinale Calcagno. C'è una petizione perché non partecipi al conclave, perché Calcagno all'epoca chiedeva a Ratzinger consigli sul comportamento da tenere con Don Nello Giraudo, sacerdote pedofilo condannato nel 2012. Dunque, scrive il Secolo, sapeva, e dunque il Secolo si chiede: può partecipare il cardinal Calcagno al conclave? Certo, dal punto di vista legale sì, ma dal punto di vista etico e morale? "24 mattino, la politica nel tunnel". Siamo qui allora alle 8 e 16 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, come si esce da questo tunnel, da questo impasse politica? Come si troverà una maggioranza per formare un nuovo governo? Ne vogliamo parlare con l'onorevole Renato Brunetta. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi. Il Popolo della Libertà, una delle persone anche più ascoltate ultimamente da Silvio Berlusconi. Senta, visto che Bersani, anche se dice di non aver vinto lui stesso, però è la coalizione che ha preso più voti alla Camera, non spetterebbe a lui la prima mossa, cioè l'esplorazione, quindi il mandato non andrebbe dato a lui per tentare un primo tentativo, Brunetta? Assolutamente sì, nel senso che il mandato esplorativo è cosa della prassi costituzionale, vale a dire chi in qualche maniera ha preso più voti, anche se non ha la maggioranza nelle due Camere, penso che dovrebbe avere questo incarico da parte del Presidente della Repubblica e per tentare di fare un governo. D'altra parte Bersani avrebbe tutte le chance per poter realizzare un governo, basterebbe che avesse o il consenso di Grillo o il consenso del Popolo della Libertà, oltre che il consenso di Mario Monti. Pare che così non voglia, nel senso che Bersani ha negato un governo con il Popolo della Libertà e ha cercato più volte, devo dire con scarsi risultati, il consenso di con Grillo. Il risultato è che Bersani è sì chi ha vinto le elezioni, ma al momento non è colui, per sua volontà, colui che ha le più alte chance di fare un governo. Però lei si è espresso anche nei giorni passati sulla possibile apertura, lì invece l'idea del governissimo, quindi PD, PDL, ma non crede che questo avrebbe poco credito nei confronti di molti italiani che hanno fatto anche un voto, se vuole, anche di protesta nei confronti del sistema dei partiti e ora vedrebbero i propri due maggiori partiti unirsi? Ma vede, gli italiani hanno votato al 60% i due maggiori partiti, per cui da questo punto di vista non ci sarebbe questione. Hanno votato al 70% se aggiungiamo Monti e poi il resto. Se guardo la recente esperienza col governo Monti, soprattutto gli ultimi atti, per esempio la legge di stabilità che è stata costruita assieme da due relatori, il relatore del PDL ero io e il relatore del PD, ed è stata una buonissima legge di stabilità. Abbiamo insieme modificato l'articolo 81 della Costituzione, quello del pareggio di bilancio, abbiamo insieme approvato la cosiddetta legge rafforzata di applicazione del pareggio di bilancio, pilastro fondamentale per la nostra credibilità in Europa. Quindi c'è margine per collaborare, lei dice. La cosiddetta strana maggioranza, devo dire, al di là delle cose sbagliate fatte da Monti, ma la maggioranza quando si è espressa in maniera parlamentare, in maniera piena, ha lavorato bene. D'altra parte questo ci dicono gli elettori, le urne. Gli elettori non ci hanno detto no ai partiti, gli elettori hanno votato in maniera maggioritaria, praticamente uguale, le due coalizioni. 30% e 30%. La bizzarria del nostro sistema elettorale fa sì che alla Camera ci sia un'enorme maggioranza col premio, pensi, un premio di maggioranza dovuto a 0,3% di voti in più, che producono 200 parlamentari. Non mi critichi la legge elettorale che non avete voluto cambiare. No, non la critico, devo dire, nasce così per la governabilità, nasce così di fronte al bipolarismo, in questo caso non c'era un bipolarismo ma un quadripolarismo, e nasce tra l'altro con il sistema del premio di maggioranza diverso al Senato, non per volontà dei proponenti di allora, ma per volontà del Presidente della Repubblica, che con una fisima costituzionale pensò di attribuire il premio di maggioranza su base regionale e non su base nazionale. Bisogna ricordarle tutti. Quindi la colpa è del Presidente della Repubblica, in realtà. Di allora, assolutamente sì, colgo un po' di ironia nella sua battuta. No, è una domanda. È fuori luogo, nel senso che questa è la storia istituzionale del Porcellum, che difatti viene chiamato dal suo inventore Calderoli Porcellum, sì, dopo la modifica imposta dal Presidente della Repubblica di allora. Allora, lei si sente di invitare proprio Bersani a dire: rifletti ancora sull'idea del governissimo? Ma guardi, intanto a me non piace chiamarlo governissimo, perché... Vabbè, diciamo un governo delle larghe intese, ecco, chiamiamolo. Delle larghe intese, di grande coalizione. Io chiedo a Bersani di leggere con attenzione quello che hanno detto i cittadini con le elezioni, tutto qua. D'altra parte Bersani è in grave difficoltà all'interno del suo partito, penso non si possa negare. La sua posizione, sia Grillo, no a Berlusconi, sa più di ossessione e pregiudizio ideologico, salvo che facendo così dà in mano il gioco totalmente a Grillo. E io non ho nulla contro Grillo dal punto di vista personale, solo che mi sono guardato bene, con attenzione, il suo programma economico, sì, e devo dire mi comporta un po' di problemi. Qual è l'aspetto che più le comporta problemi? Dal referendum sull'Europa, all'atteggiamento, sì, sulle banche, all'atteggiamento sul debito, cioè ci sono molte semplificazioni più da comizio che delle analisi di carattere economico. Tra l'altro sono molto interessato a vedere cosa dirà Grillo al Presidente del Consiglio Monti. Ha fatto bene a invitarlo, secondo lei, per il Consiglio assolutamente, Europeo? Assolutamente sì, ha fatto bene. Sì. Un partito che è il primo partito in Italia, che prende il 25%, vuole che non possa dare un suo contributo per il prossimo vertice europeo, che si caratterizza come un vertice importante. E sarò molto interessato a capire cosa dirà Grillo. Cosa proporrà? Se ci andrà, sempre che ci andrà. Senta, s'avanza però l'idea del governo tecnico. Lo stesso Movimento 5 Stelle ha detto: non voteremo nessuna fiducia politica, partiti, ma il governo tecnico sì. Ecco, un altro governo tecnico, che cambiando magari il nome, non Monti, le piacerebbe? No. Nel senso che i governi sono solo politici, e abbiamo già avuto un governo tecnico e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. La settimana scorsa l'Istat ha fatto una fotografia impietosa dello stato dell'economia italiana: crescita, disoccupazione, crescita si fa per dire, disoccupazione, produzione industriale a picco, debito aumentato, deficit ancora febbricitante, probabilmente l'esigenza di una nuova manovra correttiva nelle prossime settimane. Ecco, questo è il portato certamente della crisi, non voglio dare tutta la colpa a Monti, ma anche dell'incapacità, perché vede, non è stato tanto un governo tecnico quanto un governo burocratico. Però cioè un governo, mi scusi, questo è un concetto, quello di Monti, in cui erano rappresentate le peggiori burocrazie. E un nuovo governo sarebbe diverso da quello di Monti, un nuovo governo tecnico non credo. No, però nel momento in cui non ci fosse una maggioranza politica, che ne so, il governo delle larghe intese no, il Grillo non vota la fiducia a nessuno, in qualche modo o uno va a votare, sarebbe un disastro con questa legge elettorale, o se no un qualche... Io credo che se così sarà Bersani si assumerà una grande responsabilità, anche in termini di governo tecnico, perché... sia il PD che il PDL hanno subito, sofferto, pagato un conto salatissimo nei confronti del governo tecnico, e adesso il PD ne vuole un altro, pur di non andare alle elezioni e pur di non fare l'alleanza con il Popolo della Libertà. Vede, io sinceramente non capisco. La campagna elettorale ha avuto toni tutto sommato equilibrati tra PD e PDL, semmai i toni più accesi erano di Monti, qualcuno gli avrà suggerito di accentuare come dire, la vis polemica, e sembra strano che durante la campagna elettorale i rapporti tra PD e PDL sono stati equilibrati, dopo la campagna elettorale, di fronte a un pareggio, perché il risultato è un pareggio, venga sì. fuori no, come però Bersani, Bersani, di, Bersani dice per esempio come facciamo a metterci con Berlusconi che adesso è accusato anche a Napoli di avere corrotto e comprato il senatore De Gregorio qualche anno fa, adesso c'è la vicenda del processo Rubi, vedremo come andrà a finire, cioè come fa a presentarsi agli italiani a, a unirsi con Berlusconi Bersani? Ma vede, io ho un sogno che tutte le procure italiane si comportino come la procura di Siena, da dove non è venuto fuori un verbale, da dove non è venuto fuori un interrogatorio, da dove non è venuta fuori un'intercettazione. Sul Monte Paschi. La procura di Siena lavora molto bene, lavora con i piedi per terra, con grande equilibrio, talmente con tanto equilibrio che la vicenda Monte Paschi di Siena, che è una vicenda di gravità spaventosa dal punto di vista della malversazione economica, se provata naturalmente, e non se ne parla più sui giornali. Ecco, io ho questo sogno che tutte le procure italiane si comportino come la procura, diciamo, indaghino in silenzio di Siena, nel senso che si facciano le indagini sì, però senza vada, pubblicità, che si vada al processo eccetera, e che questo non diventi magistratura spettacolo, che non diventi giustizia spettacolo, e soprattutto che queste come dire indagini non condizionino la vita politica. Ecco, io ho questo sogno, spero di contribuire a realizzare attraverso la riforma della giustizia questo sogno. Le chiedo, lei prima ha fatto accenno alla manovra, oggi il giornale scrive in prima pagina ci vorrà, sarà necessaria una manovra da 14 miliardi di euro perché questo è il buco che lascia il governo attuale. Lei crede verosimili queste cifre? Io veramente l'avevo detto un paio di mesi fa, non so se se lo ricorda. Sì. Avevo fatto adesso un non po' la di voglio conti. Far arrabbiare, dopo lei mi dice che sono ironico, ma anche Tremonti a questi microfoni ha detto che questa è la cifra di 14 miliardi. Perché no? Per Tremonti è uno che se ne intende. No, detto questo, ci sono dei problemi legati alla congiuntura, cioè il governo Monti aveva stimato a settembre-ottobre dell'anno scorso un andamento congiunturale migliore dell'attuale, quindi quando peggiora la congiuntura peggiorano i conti e quindi bisogna rivedere anche gli equilibri di bilancio. Pensi solo che per cassa integrazione in deroga da maggio in poi serviranno probabilmente 7 miliardi in più per finanziare la cassa integrazione in deroga. E quindi nuove tasse? Sono una serie, cioè, Prego, scusi. Ci saranno nuove tasse? Cioè se ci vuole una manovra ci saranno nuove tasse? Gli italiani quando si fanno le manovre due sono gli orientamenti, le tasse o i tagli. Io preferisco i tagli. Comunque il governo che sarà, qualunque sarà, lei dice dovrà affrontare anche questa assolutamente questa. Se dobbiamo mantenere i nostri impegni nei confronti dell'Unione Europea questi sono i dati, a meno che l'Unione Europea, come ha già fatto intravedere, non sia più elastica sugli obiettivi di bilancio, cosa che ha già detto di voler fare con alcuni paesi, non lo faccia anche con noi, però per farlo bisogna che l'Italia si doti di un governo autorevole, credibile, forte, capace di interloquire in maniera responsabile con l'Unione Europea e politico, allora politico assolutamente sì. E per esempio un governo di coalizione, di larghe intese, di unità nazionale e così via. Per questo non sono favorevole ai governi tecnici, perché il governo tecnico sarebbe un governo di fatto leggero. No, ma su questo è stato chiarissimo. Politico. Un'ultima domanda, Brunetta. Ha visto per caso la presentazione dei deputati e senatori del Movimento 5 Stelle, questo modo anche nuovo di fare politica? La spaventa, per esempio, l'uomo mascherato, Beppe Grillo? Ma in politica non mi spaventa assolutamente nulla, anche perché in politica si paga tutto. Si pagano e si remunerano le cose buone e si pagano anche a alto prezzo le cose cattive e gli errori. La democrazia ha questo di bello, che qualunque cosa tu faccia hai immediatamente o non immediatamente la sanzione. È come la fisica, è una scienza assolutamente certa, l'unica incertezza è il tempo. L'effetto non viene subito, non viene subito l'effetto, viene ritardato, quindi le scelte di Grillo e del suo movimento nel bene e nel male saranno assolutamente certe e determinate, non si sa ancora quando. 24 mattino. Allora, governo politico, come chiesto poco fa ai nostri microfoni Renato Brunetta, è di larghe intese, oppure governo tecnico, come sembra aprire il Movimento 5 Stelle, che dice non voteremo nessuna fiducia nella politica, nessun partito, al limite un governo tecnico si può fare, oppure non ci sarà una soluzione a questa impasse politico. Ne vogliamo parlare con voi, 800 24 0024, lo facciamo con Giuliano Ferrara, il direttore del Foglio. Buongiorno direttore, eccoci qua. Ci sente? Sì, buongiorno. Eccoci, buongiorno, non la sentivo. Saluto anche Massimo Fini, giornalista e scrittore del Fatto Quotidiano. Buongiorno Fini e ben ritrovato. Buongiorno a voi. Allora, si sono presentati ieri i rappresentanti deputati e senatori del Movimento 5 Stelle, si sono presentati in una formula sicuramente insolita, non siamo abituati a questo modo di fare politica, si sono presentati così. Non siamo un partito, non siamo una casta, siamo cittadini. Ciao a tutti, sono Paolo Bernini, ho 25 anni, sono laureato in tecnologia della comunicazione, sono vegano e sono disiscritto dalla Chiesa Cattolica. Ciao a tutti, sono Diego De Laurentiis, vengo da Lecce, io mi occuperò di, in quanto sommelier, dell'agricoltura. Che anche. Ciao a tutti, mi chiamo Alessandro Di Battista, 34 anni, di Roma, Camera, City. E sono un reporter e uno scrittore, ho lavorato molti anni all'estero, prima occupandomi di cooperazione. Ciao a tutti, sono Mario Di Stefano, eletto alla Camera dei Deputati, ho 31 anni, sono un ingegnere informatico. Parlo tre lingue, studio la quarta, per questo mi candido automaticamente per la Commissione Esteri. Marco Baldassarre, 28 anni, Arezzo, faccio l'operaio, almeno fino a domani, poi andrò in aspettativa, mi piacerebbe occuparmi appunto di lavoro. E così, insomma, sono andate avanti per 163 volte a presentarsi. Ferrara, lei oggi sul Foglio fa un editoriale molto duro dal titolo "Bisogna rispettarli questi grillini", e dice: ma come, il partito del vaffanculo dobbiamo rispettare e trattare con questi che si presentano dicendo io faccio il sommelier, quindi voglio occuparmi di agricoltura? Ma come, non è la gente comune che fa politica finalmente? Ma la gente comune che fa politica su una piattaforma di turpiloquio e di odio verso la società politica, la tradizione politica, la cultura politica, verso la Costituzione, stracciata già adesso subito in un suo articolo, quello sul vincolo di mandato, con molta disinvoltura, e poi così gente che è un po' presa in giro da un leader ideologico come Casaleggio, ideologia e commercio mescolate insieme, e un po' presa in giro da un comico annoiato come Grillo. Ora, se io fossi arrivato a 60 anni per stupirmi in modo innocente, bambino e candido e speranzoso dell'emersione di una società civile di persone che dicono siccome sono sommelier voglio occuparmi dell'agricoltura, vabbè, allora insomma, meglio mandare, come diceva Guareschi, il cervello all'ammasso. Certo, li rispetto, voglio dire, sono lì, sono i deputati, i senatori della mia Repubblica. Cioè sono il risultato rispetto di una politica disastrosa dei partiti, e la gente hanno catalizzato tutto il dissenso. Sì, sono anche il risultato di una vecchia, orrenda tendenza italiana. Non tanto lo sberleffo, che a me piace, perché un bel comizio di Grillo è un bel comizio di Grillo, va riconosciuto, ma della tendenza italiana ad accomodarsi, diciamo, nelle condizioni poi civilmente più facili, capito? Quelle appunto, insomma, per cui ragionare, istruirsi, comprendere le cose, dare un contributo a risolverle, sono tutte cose buone per i popoli nordici. Noi diamo sfogo alla nostra personalità, ecco, questi sono i grillini. Lo sfogo della rabbia, dice. Uno ha tre lingue, dice, mi iscrivo automaticamente alla commissione. Ma è singolare, però, perché loro invece rivendicano il fatto di fare questa politica al basso, di studio delle cose concrete vicine al popolo, quello che studia magari i rigassificatori, come funzionano, quello che fa le battaglie ambientali, magari a livello locale. Per ora l'unica cosa è che hanno fatto a Parma un grande botto amministrativo, hanno eletto un sindaco e l'inceneritore è stato fatto, per grazia di Dio. È stato aperto. Allora, Massimo Fini, che ne pensa di questo? Che atteggiamento bisogna avere nei confronti del Movimento 5 Stelle? Non avrà ancora letto l'editoriale di Ferrara, ma insomma la posizione di Giuliano Ferrara è molto chiara. Fini. Ma credo, non so solo che bisogna avere, diciamo, il rispetto per chi prende dei voti e tanti voti. Mi ricordo che all'epoca in cui c'era il fenomeno del qualunquismo, Togliatti, che non era un cretino e che era un fine intellettuale come lo è Giuliano Ferrara, lo prese molto sul serio. E così va preso il fenomeno Grillo, che è molto meno banale di quanto lo si faccia apparire. È un fenomeno che deriva ovviamente non da 10 anni o 20 anni di malpolitica, ma da 30 anni, e alla fine il cittadino si è stufato. Io, che di anni ne ho 68, purtroppo è di questa classe politica molto fine, molto intelligente in alcuni esponenti, come Giuliano Ferrara, che non è un politico diretto, ma è un suggeritore della politica, mi sono veramente stufato. E quindi penso che anche chi ha votato Grillo abbia, io non ho votato perché non credo alla democrazia rappresentativa, ma chi ha votato Grillo sia in questa situazione. E poi non è affatto vero che il programma di Grillo sia così banale. Grillo è un tradizionalista che usa strumenti modernissimi come il web, che gli altri sanno utilizzare meno bene, ma in fondo per ritornare a una vita un pochino più semplice, fare qualche passo indietro, non alle caverne, non al Medioevo, ma insomma noi ci siamo complicati la vita in un modo che è diventato intollerabile. Non è Ferrara semplicemente un modo di un nuovo linguaggio, sicuramente, di fare politica, questo, insomma, il modo di rappresentarsi e di presentarsi come se fosse una sorta di X Factor virtuale della politica già ne è una rappresentazione, però è un modo diverso, ma sintomo di una scossa che ci voleva, un sistema che si era un po' incancredito nelle vecchie logiche di partito. Sono ancora lì a discutere adesso il governo, il governicchio, il governissimo e le larghe intese. Non ci voleva una bella scossa, Ferrara? Senta, io non so, adesso Fini ha citato Togliatti, che diciamo è sempre, in circostanze come quelle attuali, è persino una punta emozionante, pur trattandosi di un personaggio da prendere con le pinze per tante ragioni, un personaggio storico, voglio dire, ma voglio dire, non è che si può passare dalla Repubblica della Costituzione, dei partiti, delle grandi ideologie storiche del Novecento. Io ci ho provato a legittimare fino in fondo, diciamo, il fenomeno Berlusconi, a trovare dentro quello che Berlusconi concretamente faceva, mi sentite? Sì, sì, benissimo. A trovare dentro le ragioni di un vero rinnovamento del sistema politico, del maggioritario, della decisione per l'alternativa, quindi di un cambiamento della politica. Quello è stato l'unico cambiamento serio dalla prima alla seconda Repubblica. Tu eleggi il Presidente del Consiglio e ne eleggi uno di un segno e uno di un segno alternativo, non è poco, è molto. Adesso passare da questo a quella sbobba che ci hanno ammannito, che lei ha giustamente chiamato X Factor, cioè passare da questo alla corrida, francamente non ce la faccio. Ora, io sono anche contento che ci siano persone raffinate, intelligenti, oneste, cattive, radicali, perfide come Massimo Fini, le quali siano lì e facciano gli osservatori impegnati in questa vicenda, perché sì, sono contento che qualcuno cerchi di dare un senso al grillismo. Per me non ne ha alcuno, non ne ha salvo alcuno quello che ho già detto, un comico annoiato e un mezzo matto che dirige la Casaleggio Associati e pensa che Gaia, il pianeta Gaia, la Terra, sì, nel 2054 rivoluzionerà il mondo, appunto. Allora io penso che sia questo, però naturalmente ho capito, ma lo definisce come una sorta di setta virtuale del web che vuole e invece, cioè, tutto quello che fanno anche a livello locale, riavvicinando un po' la gente alla politica, lasciamo stare adesso la rappresentazione, il linguaggio, ma quello che hanno fatto, non so, nei consigli comunali, entrando il primo sindaco nel paese piccolo, poi un po' più grande, non vale nulla, secondo lei? Non è un modo di avvicinare la politica alle cose concrete? Vale nulla. Io sono un realista, quindi naturalmente gente che prende un quarto dei voti degli italiani, uno su quattro è tanto, no? Voglio dire, non è che la quantità per me non si trasforma in qualità. Secondo me sono più importanti i 135.000 voti che ho conquistato io contro l'aborto degli gli 8 milioni, 7 milioni di voti per il vaffanculo. Cioè, c'è proprio una differenza qualitativa che nessuno potrà mai colmare. La democrazia da questo punto di vista ha dei limiti. La conta delle teste non risolve il problema di che cosa è vero, di che cosa è sensato. Comunque, se lei mi dice, ma questi sono giovani, freschi, vanno nei consigli comunali, si danno da fare per garantire a tutti noi una vita pubblica decente... Questo pare che facciano. Per esempio, Pizzarotti c'ha una bella faccia, mi sembra simpatico. Lo reggo come esempio di una mia lista. Sì, insomma, ecco, anche dell'intervistatore è molto importante. Però è interessante. Ripartiamo da qui tra un minuto, dopo le informazioni sul traffico con Giuliano Ferrara, Massimo Fini. È interessante anche questo attacco che ha fatto Beppe Grillo, un po' alla Costituzione, un po' a dire il vincolo di mandato, caccio i parlamentari, teme gli scilipoti, quindi caccio i parlamentari che vogliono fare i Volta Gabbana, li prendo subito a calci. E da qui ripartiamo tra un attimo. Siamo con Giuliano Ferrara, Massimo Fini. Senta, a Ferrara proprio non riesce a scorgere questo aspetto innovativo, bello, nuovo di Grillo e del suo movimento e di coloro che lo seguono. Per carità, non è detto che i giovani, il nuovo sia migliore del vecchio, ma il vecchio era talmente marcito, non solo... C'era stato un primo avvertimento forte nel 92-94... la classe politica, la classe dirigente nel suo complesso non l'ha preso sul serio, anzi nel giro di pochissimi tempo i veri colpevoli sono diventati i magistrati, i ladri sono diventati le vittime, per 20 anni si è ricontinuato in quel sistema e non mi pare niente di sorprendente che nasca un fenomeno come quello di Grillo. Sì, però così forse anche lei fine... gli altri dovrebbero... analizzare il perché. Ecco, però anche lei, Fini, legittima la discussione quando la si pone sul fatto che in realtà Grillo è solo in gran parte il prodotto del marciume che abbiamo visto finora. No, è anche il programma di Grillo è un programma che se lo si va a guardare un po' bene, a parte il fatto che i programmi, ma questo si può dire per tutti i partiti, come diceva Max Weber, sono solo fraseologia, però se lo si va a guardare un po' bene, ha anche una sua coerenza, il Grillo mira, ripeto come dicevo prima, a tornare a una società più tradizionale, più semplice. E lo fa con mezzi, questi sono interessanti, dovrebbero interessare chi si interessa di politica, appunto, e sono una parte modernissimi, il web, che io detesto personalmente, sì. E da una parte invece quel vecchio comizio. Ora, io, anche Giuliano ce l'ha l'età per ricordarsi l'emozione di certi comizi, non so, di Nenni, di Riccardo Lombardi, ma anche di Almirante, cioè il comizio non è la cosa televisiva che negli ultimi anni è diventata una cosa intollerabile, dove non ci sono giornalisti che fanno domande, ci sono dei non so cosa, altro che grillini, dei coraquacqua al servizio di questo e di quello che non fa nessuna domanda. Sì, no, quindi l'elogio del comizio. Effettivamente lei, Ferrara, ha sempre elogiato anche la straordinaria forza di Berlusconi, per esempio, di parlare agli italiani, di andare al cuore degli italiani, di far emergere dagli italiani quel lato di Berlusconi che c'è in tutti noi. E allora che cosa c'è di male nel fatto che Grillo se li è conquistati girando e calpestando le piazze di tutta Italia questi voti, parlando alla gente, incontrandoli in faccia, cosa che politici non facevano più. No, ma quello è l'aspetto assolutamente positivo, figuriamoci, io sull'elogio del comizio, e poi mi piace anche molto quell'aspetto così vagamente d'annunziano, però diciamo in burla, in farsa, che è l'attraversamento dello stretto, il gesto, il pitale su Montecitorio prima o poi arriverà. Cioè, io, a me Grillo non è che dispiace esteticamente, psicologicamente, come fenomeno, ripeto, la noia dell'attore per me è importante come il paradosso dell'attore, cioè è una grande questione teorica che riguarda la società intera. Gli attori alla fine della carriera si annoiano e quindi devono cambiare mestiere, devono fare un'altra cosa. Dice. Grillo ha scelto di conquistare il potere. Guardi che gli ha dato un'idea col pitale su Montecitorio, mi sa che la concretizzerà. Mi sa che la concretizzerà presto. Il pitale su Montecitorio non è male. Ma a me comunque i comizi, ripeto, alcuni aspetti del grillismo, per esempio quelli più legati alla vita privata, l'orto, questa pazza questa idea, non mi rovinate le dune. Quando ha detto ai giornalisti che lo perseguitano, sì, davanti a casa lì a Marina di Pipona, sì, non mi rovinate le dune, io ho visto una persona che mi è simpatica, vicina psicologicamente anche. Detto questo però, qui c'è un'altra questione, bisogna essere sinceri in questo. Massimo Fini ha un'idea corruzione centrica, cioè per lui il marciume della classe politica è il fatto che si fottono un sacco di quattrini pubblici e che sono al tempo stesso relativamente inefficienti e che non realizzano un po' è così Ferrara, almeno un po' è così, però io non penso che tutto ruoti intorno a questo. Per me la storia di questi vent'anni non è la storia dei processi a Berlusconi, delle inchieste della Boccassini, delle fregnacce di Ingroia sullo Stato della Mafia, delle calunnie di Massimo Ciancimino, o anche delle cose positive che sono state fatte, perché la mafia è stata colpita duramente. No, per me il centro di questi anni è l'11 settembre, la caduta delle due torri, la penetrazione dell'Islam in Europa in certe forme, in certi modi che vanno discussi e che ci devono allarmare, le grandi... Cioè adesso il cellulare c'è un po' che ci abbandona, o il telefono la sentiamo un po' meno. Fini, la questione, dice Ferrara, non si può buttare tutto in vent'anni uguale, partiti, marciume, corruzione. Sono d'accordo, Giuliano mi confonde con quelli del Fatto, io non sono un assatanato contro la corruzione e basta. No, però lei scrive sul Fatto, no? Diciamo, sì, quelli, no, scrivo quelli sul Fatto in piena libertà, sì, certo, come scrivo sul Gazzettino di Venezia, questo, che è il giornale di centrodestra. Quindi... No, lo spiega agli ascoltatori, perché detto quelli del Fatto sembra che siano un'entità estranea. Sono un'ecclesia a loro volta, io non faccio parte di nessuna ecclesia. Però c'è la straordinaria miopia, inefficienza. Se noi pensiamo per esempio al fenomeno delle pensioni, il fenomeno delle pensioni si è creato negli anni 80, quando questi non solo per motivi clientelari hanno dato le pensioni baby, le pensioni fasulle di vecchiaia eccetera eccetera, ma non si sono posti nemmeno il problema che era statisticamente certo che la popolazione nel 2000 sarebbe invecchiata. Questo è un errore che oggi paghiamo gravissimo. Ora una classe così deve essere in qualche modo punita dall'elettorato. Io poi non so cosa posso dire e sapere cosa combineranno Grillo e però intanto la punizione c'è la sacrosanta e giusta, secondo lei, rigorosa punizione. Si dice sempre dei meriti delle punizioni. E beh, una classe politica deve essere anche punita se è sbagliata. Poi per quello che riguarda lo show, Berlusconi è stato il maestro dello show. Lo show in sé per sé vuol dire e non vuol dire, sono poi i contenuti, e devo dire che se Berlusconi nel 94 poteva suscitare interesse e speranze, sono passati 18 anni, santo Dio, adesso basta con Berlusconi. No. Allora, io ho 30 secondi, Giuliano Ferrara, mi dice secondo lei cosa dovrebbe fare Bersani? È vero che lei è più abituato magari a consigliare Berlusconi, ma Bersani... Dimettersi. E perché dimettersi? Perché? Dimettersi dal partito. Perché ha perso in senso strategico, non conta che abbia preso lo 0,4% in più alla Camera e quel fottio di deputati in più. Ma dimettersi da segretario del partito? Sì, e lasciare cioè deve chi? Avviare a una Renzi. Nuova storia lì, ma era già chiaro al tempo delle primarie, io ero moderatamente e pieno di riserve però dalla parte di questo tentativo di Renzi, insomma, che non mi illude affatto, ma deve nascere un'altra storia. E che succederà? Un governo tecnico adesso, perché la quadra politica... E questo non riguarda solo Bersani, anche Berlusconi avrebbe dovuto farsi da parte e varare uno schieramento, diciamo, conservatore, che poteva, liberal conservatore, che stavolta poteva vincere addirittura, non gareggiare. E quale sarà l'uscita? Un governo tecnico? Si parla ancora di questo? Penso di sì, ma sono gabole di scarso appeal, finirà con nuove elezioni a giugno o a settembre, non so. Ormai si vota in tutti i mesi dell'anno, forse voteremo a Ferragosto. A Ferragosto, dopo il voto d'inverno che non c'è stato, c'è quello sotto il soleone. Grazie, vi ringrazio Giuliano Ferrara, direttore del Foglio, e Massimo Fini, scrittore e collaboratore del Fatto Quotidiano. Ci sentiamo domattina alle 6.30.